giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera dal tribunale tedesco la riconsegna di Filippo Turetta, giorni il ritorno in Italia dell'assassino di Giulia Cecchettin. Fine vita, la mozione approda in consiglio regionale, maggioranza e opposizione distanti dopo il confronto in commissione. Uomini violenti, a Pordenone lo sportello si potenzia, dall'avvio del servizio 7 anni fa sono stati 250 gli uomini che vi si sono rivolti. Porto di Trieste, come cresce l'area della piattaforma logistica, visita alle infrastrutture dello scalo. Migranti, rinnovato l'accordo tra la Camera di Commercio di Udine, Pordenone e la Prefettura, 2 addetti restano in servizio per permessi di soggiorno e lavoro stagionale. La guerra dopo la seconda guerra, a Udine un convegno internazionale sulle violenze lungo il litorale adriatico al termine del conflitto. Sono le 12:31 minuti e 30 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Partiamo dall'inchiesta sull'assassinio di Giulia Cecchettin, il cui corpo, come si ricorderà, è stato ritrovato a Barcis. La magistratura tedesca ha dato il via libera alla riconsegna di Filippo Turetta, arrestato in Germania dopo una fuga durata alcuni giorni. Il Tribunale di Naumburg in Germania ha dato il via libera alla consegna all'Italia di Filippo Turetta, il giovane che deve rispondere del sequestro e dell'uccisione di Giulia Cecchettin, abbandonata poi senza vita in un dirupo sulle montagne tra Barcis e Piancavallo. Il giovane era stato fermato e arrestato dalle autorità tedesche nei pressi di Lipsia e da allora si trova nel carcere di Halle. In un comunicato diffuso stamattina, il presidente del tribunale afferma che non ci sono ostacoli alla consegna dell'indagato sulla base della documentazione allegata al mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Venezia. Lo stesso Turetta, precisano le autorità tedesche, ha a sua volta acconsentito all'estradizione semplificata. Il Ministero della Giustizia italiano chiederà a stretto giro a quello dell'Interno di mettere a disposizione del personale per scortarlo in Italia con un volo di linea. In Italia il giovane sarà interrogato per conoscere la sua versione dei fatti. Il suo avvocato intanto ha ipotizzato l'utilità di una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere del suo assistito. I funerali di Giulia verranno con ogni probabilità celebrati a Saonara, in provincia di Padova, la cittadina di origine della famiglia. I tempi dipenderanno dall'andamento delle indagini e dal nulla osta alla riconsegna del corpo dopo lo svolgimento dell'autopsia. Giulia verrà sepolta accanto alla madre morta un anno fa. E in ricordo di Giulia una fiaccolata si svolgerà domenica pomeriggio a Barcis, a poca distanza da dove è stata trovata senza vita. Nell'occasione saranno raccolti fondi a favore dell'associazione Voce Donna, Centro Antiviolenza. È una delle tante iniziative organizzate in seguito a questo ennesimo straziante caso di femminicidio. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato questa mattina al municipio di Pordenone il potenziamento dello sportello dedicato agli uomini che compiono violenza nelle relazioni affettive e familiari, un servizio presente in città già dal 2016 a cura dell'associazione Istrice, ma che ora viene rafforzato con l'ausilio di fondi europei. L'obiettivo è sviluppare un modello di cooperazione multifattoriale per accogliere uomini autori di violenza attraverso programmi di intervento loro dedicati, offrendo uno spazio di aiuto, incontro e riflessione. Grazie alla collaborazione della Fondazione Welfare, oggi lo sportello dispone di un nuovo spazio nel cuore della città per lo svolgimento delle sue attività, percorsi di confronto e riflessione guidati da professionisti sui temi della violenza contro le donne e i minori. Dall'avvio del servizio nel 2016 sono stati circa 250 gli uomini che hanno contattato lo sportello di Pordenone. Quest'anno sono stati oltre 60. Lo sportello è gestito da 2 operatrici psicologhe della cooperativa sociale Listrice, esperte nella prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento al lavoro con gli uomini autori di violenza, che possono accedere spontaneamente al percorso, essere indirizzati da terzi, ad esempio servizi sociosanitari e forze dell'ordine, nel quadro del protocollo Zeus, sottoscritto nel 2021 tra l'Istrice e la Questura di Pordenone. Lo sportello accoglie anche gli uomini maltrattanti sottoposti al procedimento di ammonimento da parte del questore. Accusa e difesa si sono confrontate ieri nell'aula bunker di Mestre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia nel processo all'imprenditore manzanese Paolo Calligaris, accusato dell'omicidio della compagna Tatiana Tulissi l'11 novembre di 15 anni fa. A riportare in aula l'imprenditore di Manzano è stata la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza di assoluzione avvenuta in secondo grado a Trieste dopo la condanna inflitta a Caligaris dal Tribunale di Udine a 16 anni di reclusione. Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, appunto, che lo condannava Caligaris a 16 anni. Anche secondo il legale della famiglia di Tulissi va riconfermata la sentenza di condanna, a cui aggiungere un risarcimento per la madre e i fratelli della vittima. È durata quasi tutto il pomeriggio l'arringa della difesa, che ha chiesto l'assoluzione del suo assistito motivandola con elementi tecnici rilevati sulla scena del delitto e con l'incongruità dei tempi nella deposizione di una testimone. La prossima udienza è stata fissata per martedì prossimo, quando, dopo l'intervento dei legali, la Corte potrebbe decidere di chiudersi in camera di consiglio. Siamo ai temi dell'economia e del lavoro. Nel porto di Trieste si lavora all'integrazione delle infrastrutture al servizio della piattaforma logistica, l'area più nuova dello scalo. Nel servizio ascolteremo la voce del presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino. Il terminal, situato all'interno della zona franca di Trieste su una superficie di 27 ettari, è dotato di due banchine con ormeggi RoRo capaci di ospitare fino a 4 navi e un raccordo ferroviario con 4 binari. Per la movimentazione RoRo è disponibile una rampa con una larghezza di 35 metri, mentre la movimentazione dei container è effettuata con gru di banchina mobili sul lato mare e con reach staker sul lato terra. Cala PLT Italy è il nome ufficiale perché in settembre 2020 è stata acquisita dal gruppo terminalista di Amburgo. Io ricordo proprio, ecco, in quel momento dell'inaugurazione le preoccupazioni dei gestori dei concessionari, perché appunto avevano una nuova infrastruttura, un nuovo terminal e avevano qualche dubbio, anzi più di qualche dubbio su quella che era l'operatività, la capacità commerciale di quel terminal. Oggi la piattaforma è piena. Lavora su tutte le tipologie, dal RoRo al container alle rinfuse, e quindi è diventata a pieno titolo una parte integrante del porto. Ha iniziato a fare le proprie attività anche ferroviarie grazie all'avvio dell'operatività della stazione di Aquilinia, che è stata appunto rimessa a nuovo, per cui insomma oggi piattaforma è parte integrante, e chiaramente con tutti i grandi investimenti previsti nell'area di Servola aumenterà ancora di più la propria capacità e la propria produttività. L'obiettivo è quello di far nascere un polo logistico a servizio dell'economia del territorio, dotato di un raccordo ferroviario in grado di accogliere treni completi da 750 metri e di un collegamento stradale diretto alla grande viabilità triestina. È chiaro che con la nuova stazione di Servola e con il terminale intermodale, chiaramente quell'area diventa totalmente autonoma, e quindi questa è anche una buona notizia per la città, perché un traffico di camion che oggi viaggia tra piattaforma e Porto Nuovo non ci sarà più, perché svilupperemo i treni direttamente lì. È chiaro che la stazione di Servola è sovradimensionata rispetto a quelle che sono le potenzialità della piattaforma, perché in quell'area comunque ci sono i progetti per il molo ottavo, piuttosto che Servola diventa una stazione di riferimento per tutte le attività che si sviluppano nella parte orientale del porto. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Fincantieri e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno firmato una lettera di intenti per valutare la possibilità di avviare iniziative congiunte nel campo della robotica applicata all'assistenza e alla sicurezza degli operatori. La collaborazione si concentrerà inizialmente sullo sviluppo di sistemi robot prototipali per l'esecuzione di ispezioni remote e per l'assistenza agli operatori, e poi sugli esoscheletri per arti inferiori e superiori da applicare a specifiche attività produttive e logistiche. Infine, sull'introduzione di tecnologie dedicate a operazioni ad elevato rischio, tra cui le lavorazioni in quota. Obiettivo della collaborazione è il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro e l'efficientamento dei processi produttivi. A Pordenone si rinnova un'importante collaborazione tra la Camera di Commercio e la Prefettura per gli organici dello sportello che si occupa di permessi di soggiorno e lavoro stagionale. Prosegue il prestito, per così dire, di due addetti, un accordo preziosissimo, come sentiamo nel servizio. Si rinnova un accordo tra la Camera di Commercio di Pordenone Udine e la Prefettura di Pordenone, che prevede il prestito, tra virgolette, di due unità di personale che stanno aiutando tantissimo da 4 mesi a questa parte per sbrigare pratiche per la concessione di permessi di soggiorno per lavoratori che arrivano attraverso il decreto flussi stagionali, ma poi possono anche fermarsi qui, o per i ricongiungimenti familiari. Un servizio molto richiesto e molto apprezzato dalle imprese del territorio, che hanno fame di lavoratori. Allora il prefetto di Pordenone, Natalino Manno, chiediamo come sta andando appunto. È un rinnovo importante perché attraverso le due unità che ci sono state concesse dalla Camera di Commercio attraverso il pagamento, le risorse economiche che sono state stanziate per questo tipo di progetto, noi siamo riusciti ad azzerare l'arretrato del 2022 e a definire, a chiudere quindi concretamente 400 pratiche, sia riguardanti i ricongiungimenti familiari e quindi per rispondere alle esigenze di unità, di coesione sociale dei migranti che sono comunque presenti sul territorio e che sono pienamente integrati e fanno arrivare i loro congiunti sul territorio, e sia per quanto riguarda le esigenze dei lavoratori stagionali richiesti dalle aziende del mondo economico produttivo. La richiesta è maggiore rispetto a quella che è la disponibilità? La richiesta è maggiore, su questo fronte so che il nostro Ministero, d'intesa col Ministero del Lavoro, stanno lavorando anche per potenziare le quote, le quote flussi, è chiaro che c'è una richiesta maggiore dei lavoratori stagionali, ma su questo sta lavorando il nostro governo. Antonio Di Bartolomeo, Pordenone, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica ora, con la discussione in consiglio regionale sulla mozione cosiddetta del fine vita, tema sul quale maggioranza e opposizioni sono molto distanti e il versante della minoranza ha già annunciato un percorso alternativo. In assenza di una norma statale e in attesa che il Parlamento legiferi sul fine vita, un gruppo di consiglieri regionali ha sottoscritto la mozione depositata a maggio da Enrico Bullian, di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia, che chiede alla Regione di garantire che ogni persona sia libera di scegliere senza condizionamenti esterni, in presenza di patologie irreversibili e senza possibilità di cura, che procurano loro sofferenze insopportabili. Dentro questo circoscritto ambito riteniamo che la Regione possa intervenire sostanzialmente dando indicazioni alle proprie aziende sanitarie di gestire in maniera equa sul territorio regionale le richieste che comunque sia arriveranno di persone che si trovano in queste condizioni. I firmatari chiedono al Parlamento di esprimersi in materia rispettando e applicando la sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, passata alla storia come DJ Fabo Cappato. Già in terza commissione il fronte contrario ha insistito sull'incostituzionalità, sostenendo che la competenza sulle leggi in materia è statale. Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia. Anche fosse regionale, e non lo è, mi domando perché l'unica legge che va a regolare i rapporti sanitari sia sul fine vita. Oggi una legge che dice che un malato di cancro che vuole vivere entro 20 giorni deve avere la chemioterapia, oggi questa legge non c'è. Mi domando perché l'unica legge debba essere su questo e non un atto amministrativo come per tutte le altre malattie gravissime nei confronti di chi vuole vivere. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo della Caritas di Trieste, che ha inaugurato questa mattina una nuova casa di accoglienza, potrà ospitare 24 persone. L'inverno è alle porte. La casa Maranatà della Caritas triestina è la risposta essenziale per un'accoglienza diurna e notturna. Struttura tampone al tempo della prima emergenza migranti dalla rotta balcanica, diventata poi l'unico centro di accoglienza della città durante un'altra emergenza, il Covid, e ora riqualificata con l'aiuto del Comune e della Fondazione CR Trieste, la casa è un punto di riferimento stabile per almeno 24 persone residenti o cittadini dell'Unione Europea. Don Alessandro Modeo, direttore Caritas diocesana. Questa struttura tra l'altro nasce molti molti anni fa proprio con questa intenzione, quella di accogliere le persone durante l'inverno e dare un aiuto immediato. Ci siamo riusciti quella volta e siamo riusciti anche a rinnovare questa offerta. Francesco Prioglio, vicepresidente Fondazione CR Trieste. È un'iniziativa che, avendo cura delle persone nostre, delle persone del territorio, qui nella prevalenza sono persone italiane o comunitarie, è come se fosse messa in evidenza un'esigenza che è della nostra comunità. Il sistema di accoglienza per persone senza fissa dimora del Comune di Trieste attualmente garantisce circa 200 posti durante tutto l'anno. Chi ha perso la casa per uno sfratto, una separazione o chi non riesce a trovare un alloggio perché ha un lavoro precario o mal pagato. Da gennaio sono state accolte 283 persone. È una risposta, ma rappresenta anche un appello da parte della Caritas diocesana in difficoltà nel poter garantire lo stipendio ai 140 dipendenti del sistema di accoglienza. Monsignore Enrico Trevisi, vescovo di Trieste. Stiamo facendo fatica con le nostre risorse a rispondere a questi bisogni, per cui sì, ci servono sia volontari sia anche aiuti concreti, perché come Caritas siamo un po' sotto pressione da tanti punti di vista. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.46, uno sguardo alla situazione del tempo sul Friuli Venezia Giulia, cielo sereno o poco nuvoloso. Vediamo le temperature. A Trieste 13 gradi, c'è ancora vento di bora, 45 orari con raffiche che hanno raggiunto i 95. A Udine, a Pordenone ci sono 14 gradi, Gorizia 15, nell'area montana a Tolmezzo 9,5, a Tarvisio 4, a Sappada 7,5, sul Piancavallo 7 gradi, a Forni di Sopra 8, sull'Ussari meno 2, sullo Zoncolan 1 grado positivo, sulla costa grado 14, a Lignano 14,5. Queste le previsioni dell'ARPA per la giornata di oggi. Avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche sottile velatura. Soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e la zona orientale, forte sul Carso e a Trieste. La pagina della cultura, Gorizia si apre alle 15, la prima giornata del convegno sulla sceneggiatura allestito nell'ambito del premio Mattador e organizzato nel complesso di Santa Chiara in collaborazione con le università di Trieste e Udine, il premio Amidei. Si intitola Il colpo di scena tra adattamento e nuove creatività, la cura di Fabrizio Borin e Paolo Quazzolo. Tra gli interventi di oggi, quelli del regista e sceneggiatore Enzo Monteleone, di Martina Zanco e Alexander Edwards dell'Università di Udine e Maria Pia Pagani dell'Università Federico II di Napoli. Organizzazione, violenza e collaborazionismo nel primo anno del litorale adriatico è il titolo del convegno storico al via oggi pomeriggio alle 15 a Palazzo Antonini a Udine, che proseguirà anche domani nella sala Tomadini dell'Università. A organizzarlo, nell'80° anniversario di uno snodo fondamentale della storia italiana, l'armistizio dell'8 settembre 1943, è l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che ha invitato studiosi e ricercatori provenienti anche da Croazia, Slovenia e Germania. Sentiamo Paolo Ferrari, docente di storia contemporanea a Udine e coordinatore scientifico dell'evento. Questo convegno è dedicato alle vicende del nostro territorio e dei territori limitrofi dopo l'8 settembre. È l'80° rispetto all'8 settembre 1943, ma abbiamo voluto affrontare questo tema in una prospettiva più ampia. Come i tedeschi hanno organizzato questo territorio, la zona di operazione litorale adriatico. Per chi non è proprio esperto di storia, quali sono stati gli eventi dell'8 settembre? Subito dopo l'armistizio c'è appunto forse il momento di più grande crisi in Italia, proprio perché c'è la dissoluzione dell'esercito, che viene lasciato senza ordini precisi, e una situazione di gravissima difficoltà che in questo territorio a cavallo del vecchio confine, cioè il territorio che riguarda il Friuli, la Venezia Giulia fino alla Slovenia, è una parte della Croazia, i tedeschi cercano di realizzare una nuova formazione, una nuova entità, riunendo popolazioni diverse nella prospettiva appunto di poterle meglio controllare e di poterne utilizzare le risorse in funzione del proprio progetto. Chi sono gli esperti storici ospiti del convegno, se ce ne può dire alcuni? Sì, noi abbiamo pensato il convegno con due relazioni iniziali di Mimmo Franzinelli sul Regisercito appunto e di Alessandro Massignani sull'industria italiana dopo l'armistizio, sul contributo dell'industria italiana al Terzo Reich, e poi abbiamo una serie di studiosi sia italiani sia sloveni e croati, perché appunto abbiamo pensato di mettere a confronto le storiografie diverse, cioè di superare una visione strettamente nazionale. Sempre a Udine, in biblioteca Ioppi, alle 17.45 si parlerà dell'ipotesi di percorsi museali con fonti audiovisive per raccontare la battaglia di Udine. Dialogheranno tra gli altri gli storici Enrico Folisi, Paolo Gasperi e Franco Morbini. E a Trieste, nell'ambito della mostra dedicata alle foto e ai filmati di Francesco Penco, a Palazzo Gopcevic alle 17 gli storici Lucio Fabi e Marta Verginella dialogheranno sul tema degli scontri politici nel primo dopoguerra. Trieste, che si apprestava a diventare ufficialmente italiana, fu teatro di scontri tra le forze socialiste e le prime formazioni fasciste, tra le preoccupazioni dei diversi gruppi nazionali davanti al cambiamento imminente. Lucio Fabi, storico e consulente museale, ha pubblicato numerosi libri sugli aspetti sociali e iconografici del primo conflitto mondiale. Si occupa della valorizzazione storica del territorio e ha collaborato all'allestimento di vari musei della Grande Guerra in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Marta Verginella insegna storia dell'Ottocento e teoria della storia all'Università di Lubiana. Altri appuntamenti culturali di oggi: lo storico dell'arte Stefano Zuffi sarà questa sera a Pordenone alle 20:30 all'auditorium del Vendramini per un incontro con il pubblico che sarà replicato domattina al Grigoletti per le scuole. Proporrà un percorso inedito fra opere di diverse epoche storiche accomunate da quella forza universale capace di comunicare con ciascuno di noi. L'organizzazione è di Ala Dura. A Trieste una serata dedicata tutta a Gianni Stuparic e alle sue opere pubblicate di recente. È in programma alle 18 alla libreria UBIC, dove interverranno Silvia Contarini dell'Università di Udine, Giuseppe Sandrini dell'Università di Verona, Anna Storti dell'Università di Trieste. A moderare e coordinare ci sarà Fabio Todero dell'Istituto Regionale di Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. E ora lo sport, turno infrasettimanale in due campionati femminili che vedono le nostre rappresentanti lottare per le posizioni di vertice. Nella A2 femminile di volley, la CDA Talmassons sarà di scena a Lignano sul campo di casa contro la Millennium Brescia, l'inizio alle 20:30. CDA quarta in classifica con 17 punti, ospiti staccate di due lunghezze. In palio c'è anche la qualificazione alla Coppa Italia che comincerà a gennaio. Nella pallanuoto tornano in acqua stasera le Orchette, che affrontano alla Piscina Bianchi la Locatelli Genova, neopromossa in A1 e ancora a quota 0 punti in classifica. La pallanuoto Trieste, terza a tre lunghezze dalla battistrada Catania e Padova, non può sprecare l'opportunità. La corsa ai play-off, dice l'allenatore alabardato Zizza, non ammette passi falsi. La partita inizierà alle 20. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli e Viola Romanese, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12:52 minuti e 30 secondi, la prossima edizione del GR regionale è alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.